Avventurieri, le chiavi sono ora in possesso dei carovanieri, che se le passano tra le mani come farebbero dei ragazzini dispettosi. Se li ascoltate con attenzione, vi accorgete che ogni volta che pronunciano una strana parola, la direzione del lancio cambia. Il primo carovaniere urla «Arzed, A-R-T-S-E-D» e poi lancia la chiave verso destra. Deve trattarsi di una sequenza criptata basata sull'alfabeto. Subito dopo un altro grida «Orteid, O-R-T-E-I-D». Se il codice funziona nello stesso modo, in quale direzione lancerà la chiave?